Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Proseguiamo la conversazione iniziata ieri sul conto energia termico con Costantino Lato. Buonasera Lato. Buonasera a tutti. Dunque, Costantino Lato è il direttore della Direzione Studi Statistiche e Servizi Speciali del GSE, il gestore dei servizi energetici, che è anche responsabile dell'attuazione e della gestione del nuovo sistema di incentivazione scattato a gennaio, con cui sono già oggi e saranno incentivati nei prossimi anni i piccoli interventi finalizzati al risparmio energetico nel settore del riscaldamento e della climatizzazione e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. In pratica, il conto energia termico è l'alternativa o il sostituto, a seconda dei casi, delle detrazioni fiscali del 55%. E come abbiamo visto ieri, per la prima volta anche l'amministrazione pubblica, grazie a questo conto energia, potrà usufruire di incentivi per migliorare la propria efficienza energetica. Mentre una seconda novità molto importante riguarda ormai, insomma, la riduzione al minimo della burocrazia per accedere all'incentivo. Questa sera, Lato, invece ci vogliamo concentrare un po' sugli economics. Ecco, Lato, ci aiuta un po' a capire dal punto di vista, diciamo, della remunerazione degli investimenti in efficienza energetica, che cosa cambia con questo. Facciamo l'esempio delle finestre. Cioè, rispetto al 55%, no? Fondamentalmente. Un po', perché il 55% metteva, diciamo, voglio dire, qui per gli interventi di categoria 1, quelli per l'efficienza energetica, quindi, e si dà un massimo del 40% che viene speso per cambiare gli infissi, per esempio, per fare il cappotto. Però mentre nel 55% c'era un limite massimo, qui la cosa importante, secondo me, di qualità è che uno non può spendere più di una certa quantità. Per esempio, se uno cambia una finestra per la zona climatica E, sì, dove fa abbastanza freddo, può spendere al massimo 400 euro al metro quadrato. Al metro quadro, è questo che cambia. Prima c'era un tetto massimo, invece sì, qui però, diventa... Però uno poteva farsi fare, diciamo... I serramenti in oro. Poi venivano pagate, qui no. Qui in realtà l'operatore, il soggetto responsabile, è invitato a utilizzare bene il proprio denaro, perché più di tanto non gli viene riconosciuto. Diciamo che il tetto qui è sulla singola unità per metro quadro e non è sul totale, e questo cambia molto. Certo, ma non solo, ma c'è anche comunque un tetto massimo, perché oltre i 200.000 euro viene riconosciuto. Se parliamo invece forse di cose più semplici, più popolari, che potrebbero avere, secondo me, un interesse di largo consenso, potrebbero essere i pannelli solari termici, che andrebbero molto bene per l'Italia. Per esempio, per una famiglia occorrono circa 4 metri quadrati e il GSE riconosce in questo caso due rate annuali da circa 700 euro. E quindi effettivamente, poi dipenderà da quanto si costa, è qualcosa compreso fra il 40 o anche il 60% forse sì, costo dell'investimento. Dipende poi dal tipo di pannello, certo. Di sofisticazione. Però insomma, siamo sull'ordine. E viene dato in due anni, quindi diciamo che anche se questa soglia è fissata al 40%, poi il modo di calcolare è anche un po' diverso, ma comunque questa soglia è fissata al 40%, ma il vantaggio è che arriva in due anni, mentre il 55% ce ne metteva 10. Esattamente, pochi maledetti ma subito. Sì, ma poi pochi fino a un certo punto, perché se mettiamo, come dire, la svalutazione forse non sono neanche meno, ecco. Certamente diciamo è più efficace da questo punto di vista. Invece se parliamo di una sostituzione di stufa a legna con stufa a stufa a pellet, un'altra cosa importante, un altro messaggio chiaro è che quando si parla dei generatori di calore bisogna sostituire uno esistente. In questo caso, per esempio, per un generatore di 10 kW, cioè una piccola stufa da casa, voglio dire, l'incentivo è sempre corrisposto in due rate e vale circa da 500 ai 340, voglio dire, euro ogni rata, a seconda della zona climatica. Per esempio a Torino gli si dà 1000 euro in due anni, che è una zona abbastanza fredda. Quindi anche qui andiamo verso quell'ordine di grandezza che dicevamo prima, è una parte significativa del costo, diciamo, della stufetta o del caminetto, e che quindi effettivamente anche questo... Che viene rimborsata, e tra l'altro non dipende neanche dal fatto di avere un reddito, cioè quei soldi si prendono versati sul conto in banca. E questo diciamo, secondo me sarà un modo che potrà essere, diciamo, di largo utilizzo. Di largo utilizzo. ci sono anche la sostituzione di una caldaia con pompa, ecco, di calore, cioè termiche. Qui in effetti diciamo l'incentivo è effettivamente più basso di quel valore, perché qui il costo, come sappiamo, per esempio per quella geotermica, il costo è dovuto agli scambiatori di calori che devono essere, voglio dire, i tubi che vengono inseriti nel terreno, certo, e quindi qui il costo non raggiunge certamente, diciamo, quelle quote significative dell'investimento iniziale. Parliamo adesso... Ecco, ma un numero ce lo riesce a dare indicativo? Cioè qui non arriviamo al 40%, sta dicendo. Sì, voglio dire qualcosa sull'ordine del 10-20%, ecco, dipenderà voglio dire, poi dal tipo di impianto che viene utilizzato, grosso modo. Sono ordini di grandezza, perché poi le tecnologie e i costi specifici... Certo, fanno la differenza. Sono molto variabili, sì. Le risorse invece che sono state stanziate per incentivazioni sono 200 milioni di euro di spesa cumulate all'anno per la pubblica amministrazione e 700 milioni di euro all'anno cumulati per i privati. Ecco, Lato, per quanto riguarda l'incidenza sulla bolletta degli italiani, sappiamo che le rinnovabili elettriche incidono oggi pesantemente per un 15-20% sul costo finale della bolletta elettrica. Per quanto le rinnovabili termiche verranno caricate, diciamo, sulla bolletta del gas, non ci si aspetta neanche, diciamo, in caso di esplosione di queste tecnologie, effetti simili. Non abbiamo fatto assolutamente una previsione di questo tipo, ma insomma, voglio dire, è un evento veramente lontano nel tempo. Nel prossimo futuro saremo in grado anche di cominciare a valutare l'impatto. Però mi sembra che le presupposti siano diversi, no? Rispetto a quelli che c'è. E poi parliamo di ordini di grandezza differenti. Infatti, parliamo di incentivi di qualche migliaio di euro, al massimo di qualche centinaio, ma quando si fanno cose molto importanti, mentre ovviamente quando abbiamo incentivato i fotovoltaici e tutto l'insieme degli impianti a fonte rinnovabile nel settore elettrico, lì si parla, voglio dire, di cifre nettamente più elevate, anche di un ordine di grandezza superiore. Per tutte le altre informazioni guardatevi il sito del GSE. Grazie Costantino Lato. Buonasera, arrivederci. Grazie di essere stati con noi, appuntamento a domani.